dovrebbe essere il 9,20, poi quello. Suppongo che sia intorno tra il 9,5 e il 9,10. Suppongo che sia così, Marco. Non c'è un punto di riferimento ben preciso. Lo devi solo calcolare così a vista d'occhio. Sì, allora il LED dopo il 9 sarebbe il più 10, quindi se ti si accende in modo discontinuo equivale grosso modo a un 9 più 5, allora siamo lì, dai, è abbastanza affidabile la cosa, dai. 9.30, vabbè, buonasera. Oh, Giovanni, buonasera, come va? Ci va, la bella meglio, dai, vai. Essere peggio meglio così. 9.30 ci arrivando, Marco. Va benissimo, Sì, sono con 3 watt adesso, prima siccome c'era propagazione stavamo facendo, collegando un po' di roba. C'è una bellissima modulazione anche tu, Gio Maria, c'è un effetto eco leggero leggero. Il 7009 sto provando, tanto che non lo accendevo, adesso ho provato, ho sentito a voi. Comunque saluto anche a Giulio con la buonasera. Ciao Gio Maria, ben ascoltato dopo un po' di tempo. Ottima modulazione, stesso segnale più o meno di Marco, 9,5 più o meno, va benissimo, guarda, io sto usando un watt di potenza con un omologato e niente di più, per cui già mi ascolti lo stesso, vai ancora Gio Maria, sei anche natalino comunque. Sei 9,5, sì, 9,5 giù, va benissimo, la bella, perfetta. Anche Marco sta uscendo veramente bene, pulita, ma bella veramente, da poc'anzi che mi sto ascoltando, per cui c'è una radio veramente bella, Marco, anche quando vai a Massimo, vai benissimo, non distorce nulla, perfetta Marco. Sì, è buono, questo microfonino si è rivelato, cioè per qualche cosa va benissimo. Invece Giulio, avevo comprato dall'America, perché in Italia all'epoca, anni fa, era introvabile, il famoso Astatic, quello con la griglia tonda cromata, convinto che fosse non plus ultra, una bucaria, mi dicevano sempre sia acuto, sia metallico, brutta proprio, infatti poi l'avevo regalato addirittura. E questo 35 euro è meglio di altri microfoni statici che sono tutti metallici. Va bene, sono contento, adesso vediamo se è rientrato Natalino dal caffè, io rilancio per Natalino e vado io a farmi il caffè, ok? Natalino, se ci sei, vai. Natalino evidentemente ancora non si è liberato. Sì, è una bella radio veramente, ce l'ho già detto, Marco. Sì, Gio Maria, gliel'avevo detto, io avevo detto che per me la radio di Marco è una delle più belle, se non addirittura la più bella della, come pacatezza e come timbrica della frequenza, indipendentemente dal fatto che può essere una radio anche più forte, anche se bella, però bene o male tutti quanti arrivano benissimo. Anche tu mi stai arrivando in maniera eccezionale, una radio bellissima, Gio Maria, con un leggero ecco, ma leggerissimo, che ci sta molto molto bene, una bella radio supersonica veramente, vai Gio Maria. Sono al minimo, cioè con 4 watt sono, proprio a zero il potenziometro, per cui l'ho usato sempre così, può aumentare ma non mi interessa andare più basso. È proprio a zero la potenza, quindi che dovrebbe essere 4 watt più o meno. Mi sembra che ce l'abbia anche Marco e quando a zero lo sono 4 watt esce. Marco, chi sì? Sì, Gio Maria, allora ce l'ho. Tu pensa che mezz'ora fa, quant'è, tre quarti d'ora fa, prima di attaccare il 3009, stavo proprio usando in ricezione il 7009, ce l'ho proprio qua sotto il 3009. Anche quello è discreto, è che a me piacciono le cromature, mi piace il display, lo Smith e la lancetta, capito? Però anche il 7009 è un bel apparecchio, c'ha tante cose, anche superiori, diciamo, ha tante opzioni in più rispetto al Superstar. però io l'effetto eco, siccome si regola dall'interno, c'ha due micro trimmer, regola dall'interno, io per la fretta non sono riuscito a regolarlo bene quanto il tuo, e quindi l'eco non lo uso mai con quell'apparato. E una domanda, stai usando il microfono di serie del 7900 o gli hai messo qualcosa di esterno? No, è il suo proprio, l'originale suo, sto usando, ha quattro dita dalla bocca, e sono il microfono suo originale. Benino, cioè il Benino, bene, adesso io ti ascolto bene, non potrei dire il contrario. Giulio, dopo l'attacco, anzi quasi lo faccio adesso, te lo faccio sentire. Ah, per la domanda che mi hai fatto, Gianmarie, credo che quando mette il minimo sia addirittura meno di 4 watt, potrebbero essere addirittura 2 watt, 2-3 watt. Se lo metti invece al massimo dovrebbero essere in pari 12 watt o giù 12-13 watt o giù di lì, non me lo ricordo perché me ne dimentico, le misurazioni le avevo fatte la prima volta e poi me le sono dimenticate. Riprendi Giulio. Attenzione a Black Canale 10, c'è qualcuno che mi ascolta. Giulio, con l'amico, è l'amico della propagazione, stiamo scendo malissimo del radio, è giusto, e poi casomai rientro e ci facciamo entrare. Sì, Giovanni, anch'io sto usando un omologato, però un fatto solamente, Giovanni. No, niente di particolare. Diciamo che è simile al 3009, non è proprio quello, però è simile, dai, diciamo che sono imparentati il 3009 con questo baracchino che sto usando io, è una versione successiva al 3009. Giovanni, vai, riprendi. Va benissimo anche quella, bella, chiara e pulita, una bella radio. Oh, questa lo uso pochi minuti, qualche volta così lo attacco, però oggi ho voluto provarlo, vedere un po' se funzionava ancora. È un bel apparecchio, Marco, è un bel apparecchio, e c'ha tante cose, per cui non lo conosco nemmeno bene ancora, perché è poco che lo uso, sempre il solito, il 6009. Quello uso molto, questo io lo devo attaccare, però la potenza non sapevo più o meno quant'era, se era 3 o 4, ma so così, se aumenta magari è chiaro che a 12 watt penso che ci arrivi, comunque va benissimo, un bel apparecchio. Ho capito bene, hai il 6009, Giovanni, confermi, 6009? No, il solito uso il 6009, adesso sto usando il 7009. Ho capito, sì, ho capito. No, il primo ce l'ho io, il primo ce l'ho io in questo momento, per cui quello evidentemente è uguale, dai. Quello CRT tuo stesso, no? CRT 6009. Confermo. Ce l'ho io, e io sto usando proprio quello, dai. Sto usando proprio quello, Giovanni, sì, che vedi bene, diciamo che il fratello minore, perché è uscito dopo del 2009, per cui siamo lì, più o meno la stessa cosa, perché il modulo tutto sommato internamente diciamo che è quasi la stessa cosa mia, o almeno addirittura veramente uguale, tutto lì, Giovanni. Ma è un bel apparecchio, è un bel apparecchio, e corre delle smicchia che non piace, ha ragione, brutto veramente, di solito mi piacciono quelli azzurri, quella roba azzurra, però questo è un colore che non mi va, però come apparato è un bel apparecchio, e ce l'ha Marco preciso, per cui infatti lo sapevo che ce l'aveva lui. Lui già lo conosce bene questo apparecchio, ecco, io ripeto, ne ho due o tre, ma non usavo quasi niente questo qua. Eccomi Gianmarie, sto utilizzando lo stesso tuo apparato, 7009, microfono originale, distanza 3-4 dita al mic, e poi io parlo di 3 quarti al mic, vedi un po'? Certo, ma se 9.30, 9.32 io con i picchi, è bella la radio, certo quell'altra era più incisiva, ecco, più bella piena, ma è bella anche questa con il microfono normale, vai, è bella pulita, quella poi quando la radio è pulita è perfetta. Vai, non faccio, va benissimo Marco. Scappa. Allora, adesso ho messo i watt al minimo, minimo per troppo minimo, non sale proprio, è come se fosse 1-2 watt. Va bene, metto a metà, potrebbero essere di 4 adesso. Ok, quale l'eco non so metterlo. Ah, Giomario, di questo apparato ho preso anche l'adattatore microfonico da RG45 a 4 poli. E quindi li posso mettere tutto, MB+5, tutto da tavolo e da palmo. È utile, costa un pochino, però è utile. Me l'hanno dato anche a me, in dotazione me l'hanno dato anche a me, per cui faccio dentro la scatola, non l'ho mai usata, perché non c'ho posto a mettere un amplificato, per cui ma mi sta bene così, ma un bel apparecchio, ma un bello veramente apparecchio, sembra un apparecchio superiore, ecco, per essere un apparato del genere, bello grande, grazie. Non c'era a dire niente, però Giulio riprendi, che prendo un attimino l'accessorio. Ok, mi manco, d'accordo. Sì, Giovanni, bene. Sì, allora hai quell'arancione praticamente, no? No, il mio è azzurrino, in questo momento è quello azzurrino, no? Va benissimo lo stesso. Comunque ha dei numeri molto ampi, grandi, che li puoi leggere anche da lontano e senza gli occhiali, non c'è problema, andata lì. Cioè, Giovanni, va benissimo così, vai. Infatti i numeri sono abbastanza grandi, per cui anche da lontano puoi leggere benissimo. È per quello che anche a me, solo il colore che non mi piace giù, non è che non mi piace, purtroppo l'ho preso, mi deve piacere per forza, però se fosse stato altri colori sarebbe stato migliore, secondo me, ma io va bene ugualmente giù, se vuoi pretendere di più, per carità, Natalino pure c'era poc'anzi, no? Sì, c'era Natalino che si era allontanato per fare il caffè e non ha più ripreso, ma è già da molto, il caffè non solo di averlo fatto, ma sarà da bravo anche digerito dopo che l'ha bevuto. Vediamo, adesso lo chiamo, Natalì. Rientrato io, E tu preso vai il caffè, mamma. Allora, adesso sto utilizzando, Giulio, fai bene orecchio, questo era il microfono preamplificato del 3009 messo con l'adattatore da 4 poli RG45 sul Superstar 7009, e siccome comunque c'è il mic gain principale di questo apparecchio digitale, io non so se distorca, sono sempre come prima 4 dita dal mic e di 3 quarti al mic. Dimmi com'è la modulazione. La modulazione è bellissima, è più bassa come modulazione, più bassa dell'altro, però è bellissima, molto bella, Marco, non c'è problema, chiarissima, pulita, proprio veramente bella. Sì, beh certo, no, io microfono MP4, guarda, l'ho provato, Marco, però non va bene, evidentemente i collegamenti non sono uguali. L'avevo provato con una prolunga che avevo per un altro baracchino che avevo prima, e anche quello non andava bene, cioè mi cambiava solo il canale, Marco, evidentemente vuole collegato in fase giusta per poter funzionare in questa radiolina che sto usando adesso, tutto lì, Marco. Se prendi Giomarì, io sto usando il microfono normalissimo comunque, Giomarì. Ma va bene anche la tua giù, come il Marco va benissimo, infatti leggermente come tu hai detto, appena più bassa, però è pulita, è pulitissima, è perfetta la radio, non c'è da dire niente. Ma stavo un po' pensando, io ho l'MP300, che gira mi sembra che gliela basta per un po' come c'è questo apparecchio. Prova, no, Giovanni, prova, ce l'avevo anch'io l'M300, non ce l'ho più adesso, purtroppo, ma da un bel po' di tempo che non ce l'ho più, però era un ottimo microfono, non so se funziona con questo collegamento, non lo so, questo non te lo so dire, prova, Giovanni, siamo qua, dai, così ti do un rapporto. No, lo provo un altro momento, perché dentro la scatola devo fare un macello adesso, lo tolgo domani e lo provo, senz'altro ci sarà qualche filo da invertire, basta, capito, per cui voglio vedere. vedere un po' come c'è, cioè, tutto lì. Se prendi Marco. Scappa. Allora, nel frattempo ho trovato anche l'effetto eco. Era il tastino band tone. Se lo premi solo una volta cambia la banda, se lo tieni premuto anziché il tono, no? Che serve per le bande amatoriali, il 27 invece inserisce l'effetto eco. Vediamo un po', non ho messo l'ascolto, e poi credo che sia regolato lungo, abbia la ripetizione lunga. Comunque, Giulio, orecchiometro, vedi un po', pulita? Perfetta Marco, non pulita, perfetta. Anch'io adesso ho inserito un attimino l'eco, non l'ho mai provato, non lo so se c'è, ma suppongo di sì, ma deve essere solamente una puntina proprio piccola, piccola, piccola se c'è l'eco. Confermi Gio Maria che c'è l'eco anche da me? Sì, ma è leggero, leggero, è poca roba, però si sente che c'è. Confermi Marco? No, io tengo il volume un po' basso, quindi l'eco non lo sento quasi. Anzi, non lo sento proprio, se perché Giulio dovresti alzare la regolazione, quello più esterno, quello centrale, dovresti alzarlo un pochino per aumentare l'effetto dell'eco. Prova un po'. Sì, infatti adesso l'ho alzato un pochino, ci dovrebbe essere. No, perché quella addirittura si stacca, perché quel potenziometro lì c'è l'interruttore, cioè è un interruttore che lo apri, lo metti in funzione e ce l'hai leggero. Adesso l'ho un po' aumentato. Ci dovrebbe essere, se poi faccio così c'è ancora di più. Beh, lo ritorno indietro così, dai, lo metto così, va bene così Gio Maria? Va benissimo così, va benissimo Gio. Ok, scusate, io avevo chiesto che sta venendo gente, per cui ne approfitto, dai, mi ha fatto il piacere di aver sentito. Vai, ciao Gio, saluto Riccardo e spero di sentirci ancora. Ciao Marco, mi fa piacere anche che ho sentito, anche te saluta, ma la mamma che ha tanto la sentiamo, spero che sia bene, buon proseguimento, ci sentiamo, riprendi. Capo Gio Maria, le porto i tuoi saluti, diciamo ne ha passate un po', dai, però adesso piano piano sta recuperando. Ok, dai, buon proseguimento di serata e alle prossime, ciao, buona serata, grazie di essere entrato. Ok, ciao Gio Maria, anch'io ti saluto fortemente, un abbraccio, dai Gio Maria, alle prossime, sperando di sentirci presto, dai, tu lo so che sei su quel canale, casomai ci faccio la scappatina anche io su quel canale e così avrò modo di sentire anche Tone e così ci salutiamo eccetera eccetera. Ciao Gio Maria, grazie ancora per la chiacchierata, mi ha fatto un grandissimo piacere, dai, alle prossime, ciao ciao. Ok, ciao Kiva. Vai, Marco, rimesso a posto senza l'eco, Marco. Ma io sai cos'è Giulio? Io continuavo a non sentirlo l'eco. Non so perché, non lo sentivo. Mentre qua, vediamo se... Ecco, aspetta, 3009 come monitor. Prova. Sì, lo sento. Diciamo che non è regolato male, dai, riesco a capire la modulazione bene. E nel tuo va regolato, adesso non mi ricordo se sia l'anello oppure il pomello centrale. E io guarda, lo uso talmente poco, l'eco, ma talmente poco che non mi ricordo mai bene come funziona. E non ti perdi niente, non usandolo. Vediamo se è rientrato Natalino. Natalino, ci sei? Natalino non riprende, no, l'ho staccato proprio, anzi l'ho messo, sì, col pomello centrale, o Marco. Noi avevo messo una puntina, potevo aumentare moltissimo io volendo con l'eco, ma non è che mi piace più tanto l'eco. Se, finché ce n'è una puntina va anche bene. Anzi, addirittura c'è un interruttore proprio sempre in quello stesso potenziometro, perché fa da interruttore e da aumento di volume dell'eco, invece l'ho addirittura chiuso come interruttore, dunque l'eco è completamente escluso addirittura, Marco, non c'è possibilità di ascoltarlo, anche incidentalmente se lo tocco l'interruttore non può essere aumentato, perché prima deve fare lo scatto di accensione per introdurre l'eco, Marco, mi sono spiegato? Sì, ha proprio l'interruttorino. lo scatto, ecco, come quando accendi l'apparato, no? Ecco qua. Dove volevo arrivare però? Aspetta un attimino. Dunque, siamo su 10, questo è il monitor, volevo vedere l'incremento. Adesso ho messo tutto a 0 watt, no? Tutto a 0, non sale quasi lo smitter del... faccio in fretta, e diciamo da un Santiago 4, sì, da un Santiago 6, sì, e quindi se sono 12 watt, 12 watt diciamo mettendo tutto a manetta, due Santiago in più dovrebbero essere, caspita, è probabile che sia proprio un watt messo al minimo, Sì, io l'ho controllato con lo strumento, con l'osmetro, ed è proprio così, e uno, poi si sa, come tu hai detto, infatti è così, guarda, io ti faccio la prova, prova a dare un'occhiata e te la accorgi, dai, dai un'occhiata, oh Marco, e così dopo mi dici, dai, guarda, Ecco, vai, ora ci siamo, e ora ritorno indietro, così, ecco, e così siamo, sono come prima, vai. Guarda, da 8,5 a 9,10, 8,5 a 9,10 circa, naturalmente con LED qua, sto usando adesso lo smitter del 7009 però, ricordati, adesso ho cambiato, sto sempre cambiando apparato, capito, così non mi annoio, non mi stanco mai dell'apparato perché posso variare. Ok, visto che ce li hai, perché no, fare girare. Sì, strano però, no, ma quello che ti volevo dire all'inizio del nostro QSO, ti volevo dire, dopo che hai cominciato diciamo a prendere temperatura, prima, cioè, guardando sempre lo strumento, guardando sempre lo strumento suo, quello incorporato, entro contenuto, da 1 è il punto 0, adesso mi arriva modulando da 1.1, non lo so se è perché ha scaldato un po', perché dopo tutti i minuti che sono alla radio, oppure è il problema di antenna, non lo so Marco, ma non credo, comunque, cioè, il problema non è, perché è 1.1, è normale, che poi lampeggia e basta, niente di particolare, è 1, magari quando scandisco le note quelle più alte, allora passa 1.1, vai Marco. Sì, trascurabile, quello anche con la modulazione lo fa, ma è poi talmente infinitesimale la differenza. Se 1 è 1 non è niente. A proposito di stazionarie, giuro, sai che avevo trovato quelle famose tabelle di attenuazione che tu mi avevi detto che se tipo se avevi 1 e 2 dividevi watt. Se avevi 1 e 2 dividevi il watt per 2, però non tornavano i conti. Allora ho trovato le tabelle di attenuazione in base alle stazionarie, e quindi se tu hai stazionarie 2, non 1 e 2, 2 proprio di stazionarie, perdi l'11,1% di potenza, però certi per convenzione arrotondano al 10%. Se hai 3 di stazionari mi pare perdi il 25% della potenza irradiata, quindi un quarto della potenza che dalla radio non viene irradiata. Poi dove vado a finire questa potenza non irradiata non lo capirò mai, se si dissipa, non lo so. E me le dovevo stampare queste tabelle, vabbè che poi una volta che sai grosso modo che conosci quella cosa lì, ti dava tutte le percentuali di watt irradiati, attenuazione in decibel, naturalmente siti non italiani, siti inglesi mi pare, o americani che siano. Sì, no, intanto c'è da fare una distinzione, se ad esempio usi un watt, hai un certo rapporto di onde stazionarie, se ne usi per dire 5, 10 o quanto saranno, hai un altro rapporto di onde stazionarie, perché man mano che si sale con la potenza aumentano le onde stazionarie, per cui c'è da stabilire anche quello, Marco, non è detto che se dire, se ti dà 1,2 lo devi dividere per dire per 1,2 sai qual è l'irradiazione che hai in antenna. Marco, è così, questo è scontato, è così, lo so da sempre io questo particolare. Chiaramente quando tu hai un watt cosa vuoi ottenere? 0,9 diciamo in antenna, non arrivi nemmeno a un watt, è ovvio, perché se hai uno di stazione 1,1 di stazionale e 1,2 cosa puoi avere? Un 0,9, 0,8, 0,9 irradiati, o Marco? Vabbè, adesso non ce le ho a portata di mano. Beh, dove volevo arrivare? Credo fosse più critica la cosa, più critica. D'altronde, se uno c'ha 10 watt, c'ha due di stazionarie, perde un watt, perdendo il 10%, è un watt abbondante, 1,1 watt, pazienza. Però, no, perché dicevo, io mi ricordo negli anni 80, 80-90, c'erano dei CB, magari che perché erano giovani, erano ossessionati dalle stazionarie, cioè bastava che avessero 1 e 2, poi con 4 watt, usando 4-5 watt, avevano 1 e 2, 1 e 3, dovevano accordare. E poi, cosa che ho sperimentato anch'io, mettendo l'accordatore dava più perdite l'accordatore che ti accordava l'antenna che non a lasciare 1,2, 1,3 e l'antenna diretta al baracchino, lo sai, introduceva più perdite l'accordatore che altro. Ma io infatti ho sempre detto fino a 1,5 nessun problema, fino ma sotto il 2 va tutto bene praticamente. Certo, magari non dico di fare passaggi falconiani se uno ha le stazionali in prossimità del 2. Ecco, dopo il 2 bisogna usare un po' più di precauzione, soprattutto se usi linearetti che sono delicati, molto molto delicati quelli, lì i finaletti partono che è un bijou, però col baracchino, con i watt normali, niente, ci avevano 1 e 2, me lo ricordo ancora, mettevano l'accordatore, accordavano, dice, adesso c'ho 1 sta 1, sì, però si vedeva che il segnale ne perdeva proprio per aver interposto l'accordatore, lo spezzone, capito Giulio? Sì, beh certo Marco, ma c'è da tenere in considerazione anche del capo di discesa, Marco, se uno utilizza un capo di discesa che ha una eccessiva perdita rispetto ad un altro, è chiaro, anche quello c'è da tenere in considerazione, per cui vabbè, diciamo che sono calcoli che a noi poco ci riguardano, però volendo essere pignoli bisogna considerare tutto, Marco, anche l'attenuazione del capo di discesa è ovvio, no? Perché uno è usare l'RG58, l'altro è usare un H1000 o un 213 o che so io, un H155 e via discorrendo, per cui bisogna considerare anche quello, Marco. Insomma, diciamo che ci sono delle regole che poi magari vanno approfondite, ecco. Sì, poi io, cioè, non dovendo tentare esamine, niente, io non ci ho mai fatto caso a questa roba qui, calcoli di perdite. Certo, comunque praticamente si è capito che 50 metri di 213 che ho dovrebbero dare circa 2 decibel di attenuazione, che tu dici cosa vuoi che siano 2 decibel? È un, diciamo, un terzo di Santiago, dai, più o meno, mezzo Santiago, un terzo di Santiago, però è tantissimo, cioè sembrano pochi da una parte ma tantissimi dall'altra, capito? Praticamente è come se anziché una 5 ottavi avessi un'antenna un quarto d'onda sul tetto, per via del cavo e dell'attenuazione del cavo, ed è del 213. Quando negli anni 90 avevo messo il 58, sempre 50 metri di RG50, avevo un'attenuazione tale che mi ricordo che mettendo l'antenna da baracchino della macchina, in macchina del nonno, prendevo meglio sotto casa dalla macchina che non con la boomerang sul tetto e 50 metri di RG58, capito? Sì, e beh, certamente sì, perché è così, in effetti è così, Marco. Anche per quanto riguarda il guadagno in segnale, ogni 3 dB, ripeto, ogni 3 dB si guadagna un Santiago, si guadagna. Per cui, no, ma sono dei calcoli calcoli matematici che ci vuole la capacità di un ingegnere elettronico per poter capire realmente e fare certi calcoli, Marco, per cui è così, lo sappiamo benissimo, no? Ma a noi poco ci interessa, intanto noi con un batte dove vogliamo andare, da nessuna parte, ma parlando un pochino di tecnica elettronica si può anche argomentare a riguardo di questo, Marco. Solo che io poco posso argomentare, appunto, essendo digiuno di tutta questa roba elettronica. Però Giulio, non 3 decibel, 6 dB, almeno in HF, va bene, non in HF, sono 6 dB, un Santiago 6 dB fino a 9, poi vabbè, dopo il 9 lo chiamano 9 più 5 decibel, più 10 dB, più 15, eccetera. No, sarebbe drammatico, se no 3 dB sarà un mezzo Santiago, là, diciamo, ecco. Sì, intendevo decibel, io ho sbagliato, non dB, intendevo decibel. Sì, ma è così, io... Se poi è un radioamatore professionista, allora può avere tutte le attenuanti e soprattutto il suo interesse fare certe calcoli, certe attenzioni per quanto riguarda la sua stazione, ma per noi Cibino non ce ne frega più di tanto, va benissimo. Va benissimo così, Marco, poi quando si brucia il finale vuol dire che lo cambieremo il finale, non è che ce ne dobbiamo uscire fuori di casa per cambiare un finale, o Marco. Sì, vediamo se è rientrato Natalino. Natalino, ci sei? Ma lui sabato va a lezione? Non lo so, questo non te lo so dire. Ma a me mi dà la sensazione, io ho sempre detto che il caffè di solito tiene sveglia la persona, a me mi sembra che a Natalino invece l'ha fatto addormentare. C'è effetto contrario a lui, chi lo sa? A me mi tiene sveglio tutta la notte, se io prendo il caffè, ma non a quest'ora, ma addirittura la mattina, intorno alle 10, 10 e mezzo, massimo le 11, io durante la notte poi faccio la nottata intera a sveglio, se si può immaginare. Ecco, registrato. Giulio, io alla fine, tirando le somme, ho visto che sia che lo beva il caffè, sia che non lo beva, non dormo, non c'è niente da fare. Io stanotte ho passato la notte in bianco, fino alle 9 di mattina ero sveglio, poi il fisico per forza è crollato e bene o male sono riuscito a recuperare. E ti assicuro che per tentare di dormire mi sono pesantemente, come dire, pillolato. Niente da fare, non mi corica neanche il pelo. Avanti break. Buonasera a tutti, già da questa parte. Beh, il profeta, di la verità, di ritorno dal mare, donne, birra, sole, mare, amore. Poi, dentro casa, inchiodato dentro casa. Altrettanto ti dico, poi oggi stavo un po' facendo i capricci, mamma, poi vabbè, poi si è un po' tranquillizzato, dai, diciamo. Che pazienza ci vuole. Purtroppo sì, Marco, ma d'altronde non so, diciamo che prima la pazienza ce l'hanno avuto i genitori e poi si sa, arrivato a un certo momento la pazienza ce la devono avere i figli, purtroppo è così, funziona così nella vita. Poi attualmente ci sono quei figli un pochino cretini, diciamo solamente cretini senza offenderli troppo, che non meritano nemmeno di stare in famiglia, però naturalmente so benissimo che non è il tuo caso, ci mancherebbe altro. Bene, oh Marco, ciao Gianni, ben entrato, dai, ma non l'ha fatto rombare oggi il tuo bolide? No, il bolide è passato ad un altro proprietario. Ora c'è solo i tacchi e le suole, basta. Ah, anche quelli, vabbè, anche quelli comunque sono truccati, anche quelli, i tacchi e le suole. Vabbè, ti è passata la passione, ti è passata la moto. No, non è che è passata la passione, è che sono, è cambiato tutto il contesto, dai, e adesso è un lusso che non mi posso più permettere. Idem con patate, già io molto prima l'avevo data tanti anni fa, purtroppo cambia tutto, il contesto economico, il contesto familiare, tutto cambia, tutto. Vabbè, è stata una bella esperienza comunque. Vai Giulio. Ok, beh, certamente sì. No, a me è sempre piaciuta la moto, la verità. Certo, adesso alla mia età non ho la moto, però l'ho sempre usata da giovane, l'ho sempre usata, mi è sempre piaciuta, la verità. Solo che oggi, come appunto stai dicendo, come state sedendo voi tutti e due, oggi è diventato un lusso veramente avere una moto, soprattutto di quella cilindrata come avevi tu o Gianni. Pensando anche a quello che incomincia a costare la benzina, mi sa che ha ragione Salvini che dice che fra un po', tra 5-6 mesi la benzina arriverà a 3 euro al litro, e allora a quel punto si incomincia a mettere da parte anche la macchina, più di una persona incomincerà a mettere da parte la macchina se il prezzo della benzina arriva a 3 euro, come ha detto l'altro giorno Salvini. Vai Gianni. No, vabbè, è entrato mio fratello, quindi mi sono distratto, mi sono perso il filo del discorso. E niente, cosa volevo dire? Mi sono perso. Allora, per Giulio una bella notizia, lui era lambrettista, no, mi pare. La Lambretta ritorna alla ribalta, presentando due bei modelli, un po' stile retro, ma non troppo. Forma classica della Lambretta col sederino allungato, tipo addome di Vespa, capito? Bellina, carina. Interessante, raga, che un marchio italiano sia stato un po' riassorbito, comunque non dico riassorbito, riproposto, sperando che sia però di fattura italiana e che non siano fatte in Cina le moto. Ok Marco, sì, infatti in effetti io ho avuto la Lambretta, ho avuto la Vespa anche, però ho avuto anche altre moto, ho avuto anche lo Zigolo, ho avuto l'Alpino, poi ho avuto anche l'Air Machi 250, quello era un bullet per carità, ma l'ho data via subito perché non era fatta per me, insomma, non, perché io ho sempre camminato piano con la moto, per cui mi bastava al massimo un 150 di cilindrata come la Lambretta Special che ho avuto, che l'ho tenuta per un bel po' di tempo, e poi l'avevo data in prima perché mi avevo preso la macchina, mi avevo comprata quegli anni, mi avevo comprato poi il 1110, niente meno, la macchina di 50 anni fa, anzi di 55 e 56 anni fa, perché io la patente ce l'ho dal 1966, per cui ti puoi immaginare. Bene, avanti Gianni. Quando la stai portando in preparazione Marco? Gianni forse è stato chiamato in casa, va bene, ti mando la foto di questa Lambretta che è uscita, G350, sia di tutti i colori, però bianca ha il suo perché, Giulio, così te la guardi, la sella vabbè arancione, un particolare un po' così. Una Lambretta ibrida l'hanno costruito, sì, beh certo, no, quella che avevo io, la Lambretta era grigia, era la 150 Special di allora e così, poi la moto, ho avuto anche la moto a tre ruote, quella l'ho tenuta ormai 35 anni, ma quella la utilizzavo per lavoro chiaramente, per il trasporto, per le consegne dei lavori che facevo eccetera eccetera, è ovvio, ma niente di più, però ripeto, la moto a due ruote mi è sempre piaciuta e mi piace tuttora, ma oggi chiaramente non la schiererei proprio per niente, nella maniera più assoluta, alla mia età non ci penso proprio, guarda, anche perché un po' di reumatismi mi sono presi con le correnti della moto di allora, per cui quelli del tempo si sono fatti sentire, Marco. Quello sì, quello sì. se uno lo usa come mezzo di trasporto tutti i giorni, magari anche tutto l'anno, può essere un pochino impegnativo per il fisico. Allora io me la sto guardando, però no, il motore dovrebbe essere già a benzina, sì, però mi chiedo chi le produce queste, non è che è la solita roba cinese poi marcata Lambretta, alla fine di Lambretta non ha nulla, chi lo sa? Comunque non è male, dai, c'ha proprio la parte dietro molto allungata, tipico della Lambretta, cioè più allungata della Vespa, capito? Qui sotto sella. Sì, sì, beh, è stata sempre un po' più allungata, dai. Io mi ricordo, ma ho anche avuto la GS della Vespa, e anche quella è una bellissima moto, era molto bella quella, poi l'avevo data anche quella, nuova, perché io quando ho dismesso le moto le ho sempre date nuove le ho date, per cui non e poi ho avuto anche motorini, ho avuto il Garelli, ho avuto l'Ital Jet, si può immaginare, e poi ho avuto una Vespetta anche 50 di cilindrata, oltre ad aver avuto quella 150 di cilindrata ho avuto anche quella 50, ma era di una comodità estrema quando facevo le commissioni a Sassari, ad esempio, che andavo a prendere delle misure eccetera, oppure che salivo in banca o che so io da qualche altro ufficio, era una comodità enorme, la Vespetta, il Vespino, me lo ricordo, un giorno me lo stavano rubando lì vicino alla via della Maviglia, a quella parte lì, l'avevo lasciata un attimo a distanza di 50 metri, c'era questa ragazza che stava tentando di portarsi la via, mi ha dato la voce, lui è scappato, l'ho inseguito, l'ho raggiunto, allora io in quel periodo ero incatenato, ero un oculista, per cui io non avevo problemi nel correre, o Marco, e quando l'ho raggiunto gli ho dato, perché lui era entrato in un cancello e dentro c'era un giardino, in questo ingresso di questa casa, l'ho dato lo schiaffo al collo e è caduto lungo nel dentro l'aiuola, o Marco. Nel frattempo che parlavi, Giulio, stavo guardando i dati tecnici, però mi sa che queste Lambretta non hanno il cambio manuale, credo che siano tipo scooter automatiche, cioè ormai il cambio in questi mesi non lo vuole più nessuno. C'è la frizione automatica, il variatore, c'è più comodo da guidare, non devi stare sempre a cambiare, a sfrizionare. Ok, però non menziona chi la produce proprio, c'è proprio in Italia, però ho i miei dubbi, vabbè, poi c'è cos'è il display digitale della velocità, non c'è più il display a lancetta, vabbè, dice i tempi vanno avanti, però a questo punto non... Vabbè, De Gustibus. Ok, sicuramente l'avranno rimodernata, è ovvio, non è che possono fare la Lambretta di prima, di 50 anni fa, no, assolutamente no. Se la fanno, la fanno modificata in tutto e per tutto, anche nei freni, addirittura sarà a batteria adesso, non più con la messa in moto a pedale come era una volta la moto, e così via, no, è normalissimo. Questo è una cosa più che normale, i sistemi vanno avanti e dunque cambiano anche i sistemi di produzione di qualsiasi oggetto, di qualsiasi cosa che uno possa costruire, è normale. Bene, Marco, riprendi. Un attimo solo, un attimo di bianco. Ok, dai, così stacco anch'io un attimino, dai, ho una necessità. E a fai. Prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, hola, sembra che vada. Minchia. Cazza. Sono ritornato, Marco. Giulio, stavo notando come mi si sta abbassando il tono della voce. Proprio mi si sta abbassando il tono, fuori di parlare. Poi quel segnale forte che c'era sotto sono tedeschi in FM. Ogni tanto li sento anche sotto di te, perciò avevo aumentato i watt in AM, capito? Sono una decina credo, e poi questo apparato è particolare, dovrebbe darne 10 in AM, 10-12, per il resto li dà modulati, forse penso che siano 20 o 30 modulati, adesso non lo so, poi bisogna vedere se sono reali anche, dovrei fare le misurazioni con il wattmetro buono, e poi adesso ho messo la, il microfono a manetta per vedere se distorce anche su questo apparato, poi una prova così en passant, poi rimetto tutto com'era. Ok, allora siamo sul canale 10, modalità uniforme Santiago Banana. La potenza, vabbè, qua è tutta a manetta perché se no alza bassa succede un casino. Superstar 7900 della CRT con microfono KPO NM532. Vediamo se Giulio mi ha centrato. Questo microfono in manda laterale su questo apparato, dai. Ehi, è così, ma... Vabbè, comunque lì non è un problema, e te l'ho detto, magari l'apparecchio che c'è una timbrica un po', e poi c'è un casino sotto che non ti dico, sento gente in FM, gente in SB, tutta una cozzaglia di segnali, credo dal nord Europa, Ehi, lo so, ma il mio è il 3009, non l'ho toccato per niente, sono al centro banda, io a te ti sento bene, per esempio a Giulio lo sento paperino. Vabbè, sai cos'è, essendo baracchini, poi sai cos'è, i natali di fabbrica, il 3009 erano un disastro, quello col display blu era spostatissimo, ma di brutto in laterale, non di qualche decina di hertz, ma di centinaia di hertz, quasi un kilohertz fuori, ho dovuto centrare io mi. Vabbè, dai, passiamo in AM, così io ho bisogno di, sono andato meno 5, ho bisogno di staccare necessariamente, passiamo in AM per i saluti. Io scendo in AM, là. Oh. Allora, Natalino, Giulio, dai, io, infatti mi si sta abbassando il tono della voce a fine serata, me ne accorgo perché mi sgracchia un po' anche la gola. Ciao Giulio, ciao Natalino, grazie dei controlli anche, e ci sentiamo, comunque sicuramente una M è meglio qua, bisogna trovare la giusta accoppiata mic, apparato e anche modo di emissione, poi qua non ho la regolazione dei toni, magari con l'MB più 5 la riesco a correggere meglio. Riprendi Giulio per i saluti. Qua appoggia il segnale. C'è il successo. Cosa ti volevo dire, Marco? Questo è quello col display in rosso, con i canali rossi. Sì, è come quello che ho qua sopra acceso. Ah, ho sentito un tono di chiamata familiare. Ciao. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Natalino, ciao. Ciao anche a Giulio, vediamo se è rientrato. Sì, eravamo già in AM, Giulio, per i saluti. Di nuovo una buona serata e ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao a tutti. Ok Marco, allora ti devo dire che ti sentivo in banda laterale, ti sentivo a 27.074.75. Ah, 250 Hz di spostamento, sono tanti, sono tanti, poi bisogna vedere appunto se l'uno, se l'altro, se è un mix dei due apparati. Niente, ci vorrebbe... Vabbè, forse mi hai sintonizzato con quello buono, diciamo, ecco. Sì, certo che sì. No, ma così era, Marco, non era 250, 25 Hz casomai. 74.75, 0.74.75 hai detto? Sì, punto 75 al posto dello 00 era 75 anziché doveva essere 75.00 invece di 74.75. No, no, no, 250 sono 250 Hz. Se fossero 25 risulterei centrato senza toccare nulla. A 25 Hz non si sentirebbe la differenza, capito? Sarei intelligibile perfettamente. Buonasera. Perché io sono che fa 1, 10, 100, eccetera, eccetera, capito? Dunque io sono... Scusa Giulio, ci sono dei segnali talmente forti che con difficoltà a copiarti. Allora, tu ti riferisci ai due giri finali dopo il kilohertz, vero? Quei due giri che... Allora, lo zero all'estrema destra, piccolo, cioè lo zero all'estrema destra sono le decine di hertz. Quello appena appena a sinistra sono le centinaia di hertz. Addirittura vado a 1 a 1, uno, dieci, cento, ah, ma tu mi stai parlando del K, cioè mi hai sintonizzato col K? Registrato già. Mamma mia, quella che mi chiama per ogni cosa, cazzo. Scusate, devo chiudere, dai, inutile. Dai Giulio, ne riparliamo. Ciao, ciao Gianni, pure il telefono adesso. Riprendi Gianni che è entrato, dai, avanti il break, chiudo quelle T. Ciao, ciao Marco, dai. Siamo qua, dai, se vuoi riprendi, non c'è problema. Ciao Giulio, non so chi ci sia di altro, saluto tutti cordialmente, dai, acceso in quest'attimo. Volevo vedere se c'era qualcuno. Mi hanno già chiamato quella sera. Stava regolando un microfono. Non so se riprende. Mi hanno chiamato stasera, noi teniamo sempre a quest'ora, così almeno pure un po' di televisione, se mi piace da dove sta andando, dai. Comunque non so se rientra Marco, ma è un po' difficile, perché di tanto in tanto doveva staccare, lo sai, per motivi familiari, però pure rientrava, non lo so se può rientrare. Tanto devo portare giù il cane, dai, volevo farmi quattro chiacchiere, ma se non c'è nessuno chiudo e vado a portare giù il cane. Ciao, fa la carica quando la fai, infatti c'è rimasto qualcuno. Infatti ci sono i tedeschi a go go. Sì, infatti a quest'ora stiamo facendo in FM una cosa tremenda, guarda. Ma noi stasera presto abbiamo addirittura omologato qua, quanti ce n'erano? Mi sono divertito un pochino, che prima che ero tanto tempo che non modulavo così a lungo. Ok, ciao Gianni, mi dispiace ancora la pista, non la volta, però ti devo salutare. Ciao, ciao Gianni, fare tutto. Ciao, ciao Gianni. Avanti, c'è rimasto qualcuno.